imprese possono fare molto per aiutare il paese e aiutare se stesse. Sta al paese diciamo, far leva su questa enorme capacità imprenditoriale, che in tutto il volume è riportato come diciamo, un tesoro, una particolarità della nostra nazione. È chiaro che bisogna poi rimuovere gli ostacoli che stanno, come dicevamo all'inizio, quando parlavamo della burocrazia, soprattutto in un'inefficienza della pubblica amministrazione, declinato in tutti i campi in cui questa opera. Si parla però di danni permanenti al tessuto produttivo italiano, insomma, è un'espressione forte. Ma parliamo della crisi, parliamo del crollo che è avvenuto, e questo è vero. Siamo, diciamo, il paese che ha subito una delle peggiori flessioni di attività produttiva. Il PIL è sceso complessivamente del 6,5%, la produzione industriale di oltre il 25% e tuttora la produzione industriale è di quasi 17% sotto i livelli pre-crisi. E noi non vediamo una traiettoria nei ritmi di crescita che ci consenta di tornare, non dico ai livelli pre-crisi, e questo forse succederà nel 2015, quindi fra molto tempo, ma sicuramente non ci consente di tornare ai livelli che avremmo avuto se la crisi non ci fosse stata. Questo richiederebbe appunto uno slancio nuovo, puntare di più sull'innovazione, crederci, e questo paese ha dimostrato in passato di poterlo fare. Da questo punto di vista i danni possono essere rimediati.